Esiste un pezzo dell'economia illegale, quella che descriveva Moises Naim, il suo illecito, e che quantificava in centinaia di miliardi di euro l'anno, che lavora sulle frontiere e sulle leggi, le valica e le elude. Vi sono storie straordinarie di traffici ordinari e incredibili storie di merci che mai ti aspetteresti possano essere trafficate. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Tutto pronto, calcio d'inizio, si nota subito una supremazia imbarazzante del Bahrain. Ma qua galera, raggio mutà molto perché faccio contrabbando le sigarette. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, come ci sono Antonio Talia e Elisa Pancaldi a confezionare questa seconda puntata speciale di Nessun Luogo Lontano in questo periodo di feste. Allora, vi siete scambiati i regali in questi giorni? Ecco, noi oggi vi parliamo di altri scambi, di scambi illegali, scambi di merce contraffatta, di merce vietata, scambi che vanno contro la legge, scambi che alimentano un'economia nera e criminale dai numeri spesso esorbitanti. Vi ricordo le coordinate Facebook e Twitter, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e la pagina Facebook. Su Twitter siamo Giampaz, il mio account personale, ovvero Nessun Luogo 24. Siccome però, lo sapete, io amo dare i numeri, partiamo proprio dai numeri. Medicinali contraffatti, opere d'arte rubate e fossili di dinosauro. Informazioni riservate e componentistica per nuove tecnologie, ma anche droga, armi e purtroppo esseri umani. Dove c'è domanda c'è offerta e in un pianeta iperconnesso non esiste un bene che non possa essere trafficato. Viviamo nell'età dell'oro dei traffici fantastici o, come la definisce un recentissimo saggio pubblicato su Foreign Policy, ecco l'era del System D. Di che cosa si tratta? Secondo uno studio realizzato nel 2009 dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, circa 1 miliardo e 800 mila persone, ossia la metà dei lavoratori di tutto il pianeta, sono occupate a vario titolo in posti di lavoro collegati all'economia ombra, di cui il contrabbando costituisce una delle voci fondamentali. Non solo, la crisi ha talmente accelerato la pervasività di queste pratiche che secondo l'OCSE, ai ritmi attuali, l'economia ombra impiegherà 2/3 dei lavoratori del mondo. Secondo il giornalista investigativo Robert Neuwirth, questa immensa rete di traffici, contrabbando e produzione clandestina di beni legali e illegali che collega al mondo ha un nome preciso. System D, da débrouiller. Il termine francese molto usato in Africa e ai Caraibi, che significa sbrigarsela, cavarsela in qualche modo. Produrre e contrabbandare medicinali consentiti in una nazione, ma vietati in un'altra? System D. Il software piratato che consente a un'azienda di risparmiare? Tutto è System D, fino alla produzione di droga, al contrabbando di armi e alla tratta di migranti. Un mondo sommerso che ammonta complessivamente a circa 10.000 miliardi di dollari e che alle voci più illegali del bilancio è costituito da 85 miliardi di dollari annui del mercato della cocaina, 140 miliardi di dollari annui di giochi d'azzardo illeciti, 186 miliardi di mercato della prostituzione e ben 200 miliardi di medicinali contraffatti. I traffici fantastici e il System D, insomma, sono ovunque e secondo l'OCSE e Foreign Policy rappresentano una delle economie più in crescita del pianeta. Questi i numeri del traffico illegale nel mondo, adesso andiamo invece a sentire il traffico sulle strade italiane, a tra poco. Per me il desiderio è qualcosa che si vuole ricevere o comprare. Per me l'amore è quando vuoi bene ad una persona o ad una cosa e fai il possibile per stare con quella cosa o qualcuno. La paura per me è un sentimento legato anche all'amore in un certo senso, perché noi abbiamo paura quando non vogliamo perdere qualcosa. Amore, paura, desiderio. Tre parole che punteggiano le giornate dei più piccoli. Tre parole che scopriremo meglio con l'aiuto dei più grandi. Torna a terra in vista con Le emozioni spiegate a mio figlio. Scienza e poesia, storie e mondo animale, sentimenti ed esperimenti. Telmo Pievani e Federico Taddia vi aspettano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio alle 9. Terra in vista, per delle feste ricche di emozioni. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questa è una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, nei giorni in cui ci si dedica anche, fra le altre cose, agli auguri e allo scambio di regali. Noi vi raccontiamo di scambi illeciti, di traffici illegali, di contrabbando, di maestri, di signori delle frontiere e del contrabbando stesso, un pezzo di economia illegale che molto spesso ha profondi legami con la criminalità organizzata. Allora, dici traffici e dici Andrea Di Nicola. Buongiorno Andrea Di Nicola. Buongiorno Giampaolo. Allora, certo, la presentazione non è particolarmente esaltante detta così. Allora, Andrea Di Nicola, professore di criminologia all'Università di Trento, fondatore del gruppo di ricerca e-crime, lavora su i traffici da parecchi anni. Fra l'altro è inutile anche far finta di darci del lei, perché io e Andrea lavoriamo insieme su queste tematiche da anni e quindi contravverrò alle leggi radiofoniche e darò del tuo a un professore universitario. Allora, Andrea, con te il tentativo che cercheremo di fare è, abbiamo sentito dalla scheda appena ascoltata come si possa trafficare veramente qualsiasi cosa, però forse esiste un filo rosso che lega chi traffica in ossa di dinosauri, in migranti e in componentistica per testate nucleari, cioè qual è il profilo del contrabbandiere perfetto? Beh sì, bisogna dire Giampaolo, non è la stessa persona, non sono gli stessi gruppi criminali, a volte sì, ma molto più spesso ciascun gruppo o ciascun contrabbandiere si specializza su rotte o tipi di traffici. Il minimo comune denominatore è innanzitutto che sono razionali, l'abbiamo un po' visto anche noi Giampaolo andando in giro alla ricerca di trafficanti, di uomini, calcolano sì. I costi e i benefici e si occupano di contrabbandi che sono ad altissimo rendimento e dove i costi criminali, dove il rischio di finire in galera o di vedersi confiscati i beni è bassissimo. Sì. Sono i professionisti, le loro sono carriere criminali che si sono sviluppate nel tempo e spesso queste persone crescono insieme alle loro carriere criminali che iniziano e finiscono, hanno la fine ed hanno una fine. Sono attività criminali che vengono sempre commesse in gruppo, difficilmente è possibile condurle da sole, quindi il contrabbandiere fa parte di un gruppo di contrabbandieri, stiamo parlando di criminalità organizzata, sì. Che può essere di diversi tipi, sì. Hanno una forte caratterizzazione sociale questi contrabbandieri, cioè hanno legami sociali, fanno parte di reti e vanno alla ricerca di competenze e professionalità. Spesso il centro della rete è la fiducia, quindi i contrabbandieri si fidano tra loro. In ciascuna di queste attività criminali ci sono compiti, ruoli, attività, sottoattività specifiche e ciascun contrabbandiere, ciascun criminale organizzato si occupa di una di queste, di uno di questi pezzettini. Sì. Tutti dominano rotte e mezzi di trasporto, sono il loro pane quotidiano, non potrebbero farne a meno. Quindi sanno da dove far passare le merci, con quali strumenti farle passare, quali sono gli stratagemmi, hanno spesso connivenze e collusioni in diversi paesi del mondo con forze di polizia, quindi agenti di frontiera. Hanno una tendenza ad essere, si dice in gergo da criminologo, policriminali, policriminalità. Spesso sta sempre più accadendo che chi fa contrabbando fa più forme di contrabbando, ne approfitta, guadagna di più perché comunque conosce gli strumenti. Direi che c'è una forte collaborazione oggi tra contrabbandieri. sono molto tecnologici, sempre di più. D'altronde la nostra società, noi stessi siamo immersi nelle nuove tecnologie perché non dovrebbero essere contrabbandieri. Ci stiamo accorgendo che le reti sociali, social network, sono sempre più utilizzate, ad esempio nel traffico di migranti. Sì. E poi sono dei grandi opportunisti, colgono occasioni, colgono vulnerabilità e nascono le loro carriere criminali proprio dove ci sono queste occasioni. Andrea Di Nicola, stai tratteggiando una vera e propria impresa, ha tutte le caratteristiche di un'azienda di successo, benché criminale. Uno dei punti fondamentali che cercheremo di mettere luce in questa puntata di Nessun Luogo Lontano è proprio la contiguità con la criminalità organizzata, che è uno degli aspetti che più preoccupano. Parleremo di farmaci contraffatti, per esempio, parleremo di contrabbando di sigarette. Quanto questo pezzo dell'economia illegale va ad alimentare altre forme di illegalità, per esempio le mafie, anche nostrane? Beh, innanzitutto una premessa: esistono, come dicevo, varie forme di criminalità organizzate. Noi siamo appunto da italiani abituati a pensare alle mafie. Sì. E quindi strutture gerarchiche altamente organizzate, ma il contrabbando spesso è fatto da piccoli network, piccole reti, soprattutto alcune forme di contrabbando. Se pensiamo all'organizzazione contrabbando del traffico, nella contrazione di medicinali contraffatti, per sì. esempio questo è il caso. Però ci sono punti di contatto, connivenze tra grandi criminalità organizzate, come le intendiamo noi, e queste forme di criminalità organizzata più piccola. Direi che non si può, l'uno non può fare a meno dell'altra. Razionale, professionista, opportunista, tecnologico, è questo il profilo del contrabbandiere perfetto che ha tratteggiato Andrea Di Nicola, lo ricordo, professore di criminologia all'Università di Trento, fondatore di Crime. Grazie mille Andrea, buona giornata, buon lavoro. Buona alla giornata prossima. A te e ai tuoi ascoltatori. Grazie. Allora, abbiamo citato fra gli altri il contrabbando di farmaci contraffatti, in particolare complice una recente legislazione che ha aperto la possibilità alle farmacie di esporsi in rete, quindi ha ampliato enormemente il mercato. Si è assistito a un preoccupante fenomeno che potremmo sintetizzare in una storia, la storia di una piccola pillola che viene prodotta in un laboratorio clandestino in Cina o in India, per esempio, e finisce però nelle mani di un consumatore, di una consumatrice in Inghilterra o in Francia. Un farmaco apparentemente innocuo, nella migliore delle ipotesi non fa nulla, nella peggiore delle ipotesi può portare anche la morte, perché purtroppo non vi è stato il controllo adeguato. Gabriele Baratto, ricercatore, anche lui all'Università di Trento, fa parte proprio del gruppo iCrime, lavora a stretto contatto con Andrea Di Nicola. Buongiorno Gabriele Baratto, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti. Allora, stavamo parlando con Andrea Di Nicola di opportunità, il fatto che le farmacie online adesso possono dispiegare la loro offerta di prodotti e non sufficienti controlli da parte delle autorità, dato il mare magnum che è appunto la rete, ha creato delle serie opportunità per chi traffica in farmaci contraffatti. Ci puoi, Gabriele Baratto, fare un esempio di che tipo di business stiamo parlando? Magari parlando di un prodotto specifico, qual è per esempio il farmaco più contraffatto e più contrabbandato? Allora sì, possiamo dire, parlavamo appunto di questo mare magnum, è senza ombra di dubbio un mondo sterminato quello di internet, e oggi ci sono online decine di migliaia di siti che vendono o che promettono di vendere farmaci al consumatore, e si stima che di queste soltanto l'1% sia legale, sia legittimo. Mm. Quindi stiamo parlando veramente di un fenomeno molto molto vasto. E per parlare di categorie terapeutiche, categorie di farmaci, una appunto di quelle più vendute da questi siti e di conseguenza una delle più cercate dai consumatori sì. Occidentali sono appunto i farmaci per le disfunzioni erettili, quindi Viagra, Cialis, Levitra e tutti i farmaci di questo tipo. Perché viene ricercato questo farmaco? I motivi sono diversi, vanno dalla volontà dei consumatori di acquistarli per migliorare le proprie performance, sebbene non possiedano in realtà le condizioni cliniche per richiedere la prescrizione per questo tipo di medicinale, ha l'imbarazzo invece che magari potrebbe avere un consumatore invece nelle condizioni di richiedere la prescrizione, che quindi preferisce non recarsi dal medico ma di acquistare direttamente da questi siti ovviamente che non richiedono mai la ricetta medica, anche per acquistare farmaci invece su vecchia prescrizione. Sì, quindi vi è anche una componente psicologica, e ancora torniamo sul tema dell'opportunità, no? Che il criminale, l'organizzazione criminale va a sfruttare anche componenti che sono forse più intime e che non penseremo mai possano concorrere alla formazione di questo grande puzzle criminale. Grazie mille Gabriele Baratto per essere stato con noi, lo ricordo, ricercatore all'Università di Trento, fa parte del gruppo iCrime. Grazie mille ancora una volta, buona giornata e buon lavoro Gabriele. Grazie mille, buona giornata a tutti. Allora, pillole di Viagra contraffatte, ossa di dinosauro, organi umani, reperti archeologici, denaro, migranti, tutto si può contrabbandare, tutto si può trafficare nel mondo. Volete sapere qual è la classifica dei beni più contrabbandati? Ci ha pensato il sito Avoxscope, che lavora su fonti aperte e fondamentalmente va ad aggregare quelli che sono i dati a livello mondiale. È molto molto interessante ascoltare questa strana, speciale, straordinaria classifica. La parola traffico viene spontaneo accostarne altre, come droga, armi o esseri umani, ma la realtà può essere spesso più sorprendente della percezione che ne abbiamo. Secondo la classifica compilata da Avoxscope, un sito think tank che si avvale di fonti aperte per produrre analisi e fact-checking sul mercato nero a livello globale, il prodotto più trafficato al mondo sono i farmaci contraffatti. L'incoerenza delle normative tra Stato e Stato, la reperibilità sempre più facile dei componenti chimici e molti altri fattori hanno creato l'opportunità per un mercato del valore di 200 miliardi di dollari all'anno. Al secondo posto c'è il mercato della prostituzione, con 186 miliardi di dollari. Ma anche la medaglia di bronzo viene assegnata a un bene che nell'immaginario comune è abbastanza lontano dai mercati illeciti, ossia i prodotti elettronici contraffatti, capaci di movimentare un volume d'affari annuo di circa 169 miliardi di dollari. Oltre le voci più scontate come la marijuana, 141 miliardi, quarto posto in classifica, e la cocaina, sesto posto in classifica, con 85 miliardi, la lista apre squarci su un mondo di traffici davvero fantastici. Il mercato del pesce pescato di frodo, ad esempio, movimenta 23 miliardi e mezzo. Quello di specie animali protette, ben 19 miliardi. Il contrabbando di opere d'arte trafugate vale 10 miliardi di dollari all'anno. I cosmetici contraffatti totalizzano 3 miliardi di dollari all'anno. Fino a voci ancora più insospettabili, come le adozioni internazionali, le batterie e gli accendini, che valgono rispettivamente 1 miliardo e 300 milioni, 23 milioni e 42 milioni. In definitiva, non esiste un bene che non possa essere trafficato. Restate con noi, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Piccola pausa, poi nessun traffico sarà lontano. Per me il desiderio è qualcosa che si vuole ricevere o comprare. Per me l'amore è quando vuoi bene ad una persona o ad una cosa e fai il possibile per stare con quella cosa o qualcuno. La paura per me è un sentimento legato anche all'amore in un certo senso, perché noi abbiamo paura quando non vogliamo perdere qualcosa. Amore, paura, desiderio. Tre parole che punteggiano le giornate dei più piccoli. Tre parole che scopriremo meglio con l'aiuto dei più grandi. Torna a terra in vista con Le emozioni spiegate a mio figlio. Scienza e poesia, storie e mondo animale, sentimenti ed esperimenti. Telmo Pievani e Federico Taddia vi aspettano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio alle 9. Terra in vista, per delle feste ricche di emozioni. assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo: è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Nessun luogo è lontano. Allora, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questa è una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che cerca di indagare un fenomeno che è assolutamente pervasivo, globale, mondiale: i traffici e soprattutto il contrabbando. Un pezzo di economia legale che vale centinaia di miliardi di euro l'anno e che spesso ha legami con la criminalità organizzata. Tutto può essere trafficato sulla faccia della terra, lo abbiamo capito, dalle ossa di dinosauro alle informazioni, a componentistica nucleare, fino alle finte pillole di Viagra o di antimalarico. Esiste però poi uno strano ritorno, corsi e ricorsi della storia, per cui fenomeni criminali che pensavamo essere ormai scomparsi e poi riappaiono magicamente. Vediamo se riconoscete l'estratto di questo film. Avvocato, aiutateci! Avvutimmo, mannanga galera! Ma qua galera? Ha giovuta molto perché faccio contrabbando e sigarette! Ma ho sapete quanto tempo ci mette per guadagnare 28.000 lire? Non ne parliamo, giorno e settimana sempre lo stesso posto, sotto sole e sotto all'acqua. Insomma, abbiamo voluto fare un'operazione di modernariato criminale, se volete. Abbiamo recuperato questi vecchi film in cui la Loren ci presentava le bionde, il contrabbando nelle bionde nei vicoli di Napoli, il contrabbando di sigarette che sembrava ormai essere destinato a una sua fine e invece sta ritornando. È un fenomeno preoccupante. Abbiamo con noi per discuterne Luca Gentile, responsabile comunicazione e relazioni esterne di BAT Italia, British American Tobacco. Dottor Gentile, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, un fenomeno che sembrava ormai tramontato ritorna prepotentemente alla ribalta. Complice una legislazione, ce ne ha parlato Andrea Di Nicola a inizio di questa trasmissione, che ha fatto sì che la depenalizzazione di un certo quantitativo di chilogrammi proprio di contrabbando abbia, come dire, spinto i contrabbandieri a diventare piccoli contrabbandieri, cioè quindi con piccole quantità. Voi avete fatto una ricerca che cerca di fotografare appunto questo fenomeno. Proviamo a sintetizzare cosa sta accadendo nel contrabbando di sigarette. Beh, guardi, allora, il fenomeno del contrabbando di sigarette, ahimè, rispetto a quanto veniva descritto dal film con Sofia Loren, si è evoluto. Oggi è sicuramente un tema di urgente attualità geopolitica ed economica internazionale che per l'Italia assume un ruolo strategico, dal momento che l'Italia stessa è interessata dal fenomeno sia come mercato di destinazione finale sia come mercato di transito verso gli altri stati dell'Unione Europea. Si è evoluto, è un fenomeno globale, è un fenomeno che interessa non soltanto le organizzazioni criminali ma anche il terrorismo. Infatti è del tutto evidente che dietro gli attentati terroristici in Europa ci siano catene di supporto logistico e finanziario, e tra queste fonti di finanziamento sicuramente il contrabbando di sigarette spicca tra quelle fonti di finanziamento più semplici e più rapide per generare il cash per i terroristi. È un fenomeno, come dicevo, che si è evoluto nel tempo, un fenomeno globale che ha modificato in tutto e per tutto le sue modalità di vendita, le sue modalità di trasporto. L'unica, diciamo, costante che è rimasta nel tempo è la motivazione per cui un consumatore si rivolge al mercato del contrabbando, è sicuramente quello del prezzo, del leva prezzo, e di questo se ne sono accorti da sempre le criminalità organizzate, che reperiscono facilmente grossi quantitativi di sigarette in paesi dove il costo è molto basso e lo trasformano nelle modalità più creative e innovative lungo determinate rotte sino ai paesi di destinazione. Chiarissimo, anche qua ritorna il tema dell'opportunità. Vedete, cari ascoltatori, una differenza di prezzo crea un'opportunità per l'organizzazione criminale che evidentemente va a sfruttarla. Dottor Gentile, possiamo fare un esempio di qualche rotta, per esempio, sulla quale appunto insistono le organizzazioni? Sì. In questo momento le rotte che maggiormente impattano i mercati europei sono sicuramente di due ordini: quelli che arrivano dall'est europeo e che sicuramente vedono Ucraina e Bielorussia in prima linea, ma anche il Nord Africa con le rotte che passano da Algeria e Tunisia colpendo i porti siciliani e spagnoli, nonché la rotta in ultimo tramite Cipro che passa per la Grecia e arriva nuovamente nei porti dell'Adriatico. Sì. Quanto frutta un business di questo tipo? Intanto dobbiamo precisare che stiamo parlando di contrabbando di sigarette, sigarette lecite o sigarette contraffatte, perché poi il tema è differente, no? Assolutamente sì. Il contrabbando di sigarette, il mercato delle sigarette in particolare, ha una peculiarità tutta sua, nel senso che parliamo di contrabbando. La contraffazione, pur esistendo, rappresenta un elemento marginale del problema. Questo perché rispetto al passato la globalizzazione, i traffici internazionali rendono molto più semplice e meno rischioso reperire prodotto in paesi dove costa meno e trasportarlo invece dove è più profittevole. Penso per esempio al Nord Europa. Rispetto invece alla domanda sul il vantaggio economico e sui danni economici prodotti sia al settore privato che allo Stato, guardi, mediamente parliamo di cifre che riguardano l'Italia intorno al 1 miliardo di euro sottratto allo Stato in mancate accise, ma ultimamente, siccome mi occupo di tutta l'area sud Europa, le posso dire che guardiamo paesi che vanno dal Portogallo alla Grecia. In sintesi abbiamo circa 2 miliardi di mancato gettito per i governi. Dottor Gentile, in questa puntata in Nessun Luogo Lontano tratteggiamo traffici straordinari, cioè traffici che magari non ci si aspetta, oppure traffici ordinari che erano spariti e che poi sono tornati in auge per convenienza, soprattutto economica. Che cosa si può fare per contrastare il contrabbando di sigarette? Guardi, devo dire che da questo punto di vista l'Italia rappresenta un caso virtuoso, perché ha un'esperienza in termini di contrasto ai traffici illeciti, in particolare il contrabbando di sigarette, che arriva dagli anni 70. Sì. Da questo punto di vista anche il governo ha negli ultimi anni avuto un approccio molto ragionevole nei confronti delle politiche di prezzo. Io credo che il privato possa dare il suo contributo in termini di comprensione del fenomeno, risorse da destinare a studi ma anche a contrasti effettivi, come noi facciamo ormai da anni al fianco di Direzione Nazionale Antimafia e Guardia di Finanza. Sì. E ancora più importante lo studio che si possono fare con think tank, università, quali per esempio la startup Intelligit, che con noi ha realizzato uno studio unico nel suo genere, quindi quello di mettere insieme tutte le fonti a disposizione in questo paese. Perché è un mercato, è un business, quello del contrabbando, che può essere fronteggiato soltanto con strategie di lotta strutturate che possano far leva su tutte le conoscenze in capo ai soggetti pubblici e privati. Quali segnali può avere il consumatore quando gli viene offerta un pacchetto di sigarette? Come può capire che quello è frutto di contrabbando e che quindi sta inconsapevolmente alimentando anche la criminalità organizzata? Ma banalmente mi viene da rispondere che le sigarette in Italia si vendono tramite il canale tabaccheria e tramite una catena distributiva effettivamente ben controllata. Quindi a tutti i consumatori che si rivolgono per qualsivoglia motivo al mercato del contrabbando, a un venditore per strada, a una bancarella, mi viene da dire che pagando un euro in meno lo si sta destinando alla criminalità organizzata e si sta finanziando anche il terrorismo, con il rischio di veder generare dei danni successivamente, magari anche in altri paesi, anche in altre situazioni. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire continuate a comprare nei canali leciti, perché spendendo nel mercato illecito finanziate criminalità organizzate e terrorismo. Insomma, ancora una volta il consumatore viene investito di una certa responsabilità, l'abbiamo visto anche sul tema dei farmaci contraffatti. L'acquisto online è un acquisto certamente, se non è verificata la farmacia, è un acquisto irresponsabile e inconsapevole, nella migliore delle ipotesi, anche sul caso delle sigarette. Evidentemente il mercato esige una consapevolezza maggiore. Ringrazio Luca Gentile, responsabile comunicazione e relazioni esterne di British American Tobacco Italia. Grazie mille, dottor Gentile, grazie, buona giornata. Grazie a voi della disponibilità, arrivederci. Allora, in questo viaggio di Nessun Luogo Lontano, in cui vi raccontiamo i traffici più inaspettati, i contrabbandi più inusitati sulla faccia della terra, complice le nuove tecnologie, complice falle normative, opportunità, dumping criminale sui diversi mercati, certamente uno dei mercati principe resta quello del traffico di esseri umani, ma a volte il traffico di esseri umani prende pieghe inaspettate. Adesso infatti vi porto allo stadio perché vi raccontiamo la storia di un contrabbando estremamente particolare, un'intera squadra di calcio contrabbandata per una partita in particolare. Come è potuto succedere ce lo racconta Giulio Di Feo della Gazzetta dello Sport. Credo che se lo stiano ancora chiedendo che cosa è successo esattamente quel 7 settembre del 2010 a Manama. Succedeva che il Bahrain, che doveva preparare la Coppa del Golfo, che è una competizione tiratissima, decise di fare delle amichevoli importanti, probanti, e organizzò questa amichevole con il Togo, squadra di un certo livello all'epoca, ci militava De Bayor, avevano fatto il mondiale pochi anni prima. Tutto pronto, calcio d'inizio, si nota subito una supremazia imbarazzante del Bahrain. Invito chi ci ascolta ad andare a guardare i video su YouTube. I giocatori del Togo semplicemente sembravano veramente usciti da un altro mondo, interventi scomposti, sempre in ritardo, movimenti sconclusionati. All'inizio si pensava fosse dovuto al Ramadan che li aveva debilitati fisicamente, poi a fine partita il CT del Bahrain, Hitzberger, austriaco, uno che ha tipo 50-60 presenze con la nazionale austriaca, diciamo che 2-3 partite le ha viste, dichiarò praticamente sì, ma i nostri avversari non stavano in piedi. E lì diciamo che qualche sospetto inizia a nascere. 3 giorni prima il Togo, quello vero, aveva perso una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa. Il Bahrain pubblica sul suo sito la notizia di aver battuto il Togo, e la federazione del Togo dice ma noi non ne sappiamo niente di questa partita. E qui viene fuori la verità. I giocatori del Togo non erano i giocatori del Togo, erano dei baldi giovanotti pagati, pare qualcosa come $400-500 a partita, per giocare quella partita con la divisa del Togo. Ovviamente la FIFA aprì un'inchiesta e venne fuori quello che praticamente c'era dietro questa partita. Era stata appunto combinata ad arte, c'era dietro il Perumal, il Maradona delle combine e vari altri personaggi, tipo per esempio l'artefice pare sia stato Bana Chanilegra, già stato il CT del Togo, già squalificato perché pare avesse fatto lo stesso in passato con una nazionale giovanile del Togo portandola in Egitto, ma non era la vera nazionale giovanile, che poi si giustificò dicendo che il suo era stato un atto di protesta perché in Togo i giovani non avevano molto spazio in campo, ecco. Però ovviamente dopo essersi scusato con la Federazione del Bahrain e con tutti, insomma un'opera d'arte in piena regola. Allora, per la cronaca strettamente sportiva, il match finisce 0-3, nonostante gli sforzi profusi appunto dai finti giocatori togolesi per mettere in piedi un'operazione di questo tipo. Pensate, 22 finti giocatori portati in Bahrain che poi mettono in scena questa partita di calcio, fissando il risultato proprio sul pronostico che doveva essere poi effettivo. Chi è che ha portato questi 22 attori fino in Bahrain? Come è andata davvero questa operazione? Sentite ancora Di Feo. La regia di Perumal. E abbiamo detto del coinvolgimento di Cianilè. Cosa strana che fa pensare, l'arbitro di quella partita è uno degli arbitri più chiacchierati d'Africa, è Chaibu, della Federazione del Niger, già famoso per aver una volta concesso un rigore contro l'Argentina all'ottavo di recupero per fallo inesistente di una partita in cui lui di minuti di recupero ne aveva fischiati 5. E personaggi, oltre a tutti gli attori, non solo loro, anche c'erano anche i finti dirigenti del Togo, perché ovviamente poi una roba così, se la metti in scena devi metterla in scena bene. E c'è stato anche poi lo stupore della Federazione del Bahrain il giorno dopo, che dice: no, ma noi con gli impresari con cui abbiamo organizzato questa partita è sempre andato tutto bene. Insomma, la cosa, sai, a volte è come quando i prestigiatori fanno sparire la Tour Eiffel: più è grossa, meno ti accorgi dell'inganno. Il traffico fantastico che vi stiamo raccontando in questa parte in Nessun Luogo è Lontano ha comportato il contrabbando di ben 22 calciatori togolesi, ma anche tutta la dirigenza, complice appunto un arbitro che non era noto per la sua integerrima condotta sul campo da calcio. Però poi, attenzione, ancora andiamo a parlare di opportunità. C'è un organismo che è la FIFA che avrebbe dovuto vigilare. Chi è che ha chiuso gli occhi di fronte a un traffico fantastico di questa portata? Sentite Di Feo. Il controllo più semplice penso che sarebbe stato quello del calendario, cioè appena tre giorni prima il Togo appunto aveva giocato una partita ufficiale di qualificazione in Coppa d'Africa, quindi sembrava quantomeno strano che si giocasse un'altra partita amichevole per giunta in Bahrain. Pare che i giocatori lo abbiano saputo mentre erano in pullman, mentre tornavano dall'altra partita, si erano rimasti stupiti anche loro. La vigilanza ovviamente in questo caso qui deve essere delle singole federazioni, che devono accertarsi di delle persone con cui stabiliscono un dialogo. Però ovviamente queste sacche d'ombra sono sempre in paesi dove magari non c'è un'esperienza abbastanza forte di controlli, eccetera, quindi è ovvio che poi possa capitare l'inganno. Ma ripeto, questo è una roba una tantum. Credo francamente che sia difficile organizzare un'opera d'arte tra virgolette del genere un'altra volta, soprattutto nel 2017 con col villaggio globale dentro cui siamo immersi, ecco. I traffici fantastici in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Il mondo è nelle mani dei contrabbandieri, se pensiamo ai fatturati che loro possono realizzare, ai tipi di beni e di servizi che possono essere contrabbandati, dalle ossa di dinosauro fino a intere squadre di calcio, passando per armi, droga. E il tutto avviene lavorando sulle frontiere, lavorando sulle vulnerabilità normative e molto spesso, e questo è motivo di preoccupazione, i contatti con la criminalità organizzata o con le organizzazioni terroristiche sono dietro l'angolo. Potete commentare questa puntata sulle nostre pagine Facebook oppure su Twitter, Nessun Luogo Lontano - Radio 24, gli account Twitter sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24 c'è un'altra storia che volevo raccontarvi, di cui mi sono occupato un paio di anni fa insieme a un team di giornalisti europei, e parliamo qui invece di traffico di migranti. Ne ha fatto cenno a inizio trasmissione il professor Andrea Di Nicola, parlando ancora una volta di opportunità. Chiudiamo una rotta, se ne apre un'altra. Erigere muri non fa altro che allungare le rotte dei migranti, coinvolgere più trafficanti, far alzare i prezzi del traffico stesso. Ebbene, tra dicembre e gennaio del 2014-2015, un'organizzazione criminale ha avuto un'idea geniale. Permanente all'escuccia. Allora, avete presente quei vecchi canotti che abbiamo visto fino a qualche tempo fa partire dalle coste libiche? Avete presente quei vecchi pescherecci che partivano magari dai porti Alessandria d'Egitto oppure Sfax in Tunisia, o ancora le yacht di lusso che partono dalla Turchia? Ecco, dimenticate tutto quello, perché un'organizzazione, un paio di organizzazioni di siriani che erano grossi armatori e quindi avevano disponibilità di cargo in Romania, tra il dicembre del 2014 e il gennaio del 2015 hanno preso 17 cargo, poi ribattezzati dalla stampa cargo fantasma, li hanno riempiti di migranti, stiamo parlando di 5.000 migranti per 17 cargo, e li hanno spediti in Italia. Decine di milioni di euro di fatturato, utilizzando che cosa? Beh, dei mezzi che erano oramai a fine vita, perché ogni cargo poteva valere in ferraglia massimo un 200.000 euro, non era capace di trasportare praticamente nessun'altra cosa se non che cosa? Beh, profughi siriani desiderosi di scappare dalla guerra e raggiungere l'Europa. Questo è l'opportunismo, questa è la professionalità dei contrabbandieri professione. A volte però si contrabbandano identità, a volte si contrabbandano privilegi e titoli, e a volte passaporti. Se è vero che il contrabbando e i signori delle frontiere lavorano proprio sui confini, quale migliore grimaldello, o meglio chiave, per aprire i confini di un passaporto blu? Sentite Antonio Talia. Sono le 15.40 del 9 luglio 2014. 14 agenti dell'FBI fanno irruzione in tre sontuose ville del casinò Caesar Palace di Las Vegas e si ritrovano di fronte a un muro di monitor collegati a numerosi siti di scommesse online e ad alcuni televisori sintonizzati su Argentina-Olanda, semifinale di Coppa del Mondo, che si sta disputando in quel momento a San Paolo del Brasile. Gli agenti fermano 8 uomini originari di varie nazioni asiatiche e li incriminano con l'accusa di violazione delle leggi federali sul gioco d'azzardo. Secondo l'accusa, da quelle stanze d'albergo hanno messo in piedi un gigantesco giro di scommesse illegali sui mondiali. Uno di loro, il leader, si chiama Paul Fua, è un cittadino malese molto famoso ai tavoli da poker dei migliori casinò del mondo, e agli agenti esibisce un documento capace di fare scoppiare un vero e proprio intrigo internazionale. Paul Fua, il professionista del gioco d'azzardo, sospettato di scommesse clandestine, è anche l'ambasciatore di San Marino in Montenegro e invoca l'immunità diplomatica per evitare l'arresto. Nei mesi successivi si scoprirà che il traffico di passaporti diplomatici di San Marino coinvolgeva numerosi personaggi singolari, gente come Achille Ascalakis, britannico, ambasciatore di San Marino in Regno Unito, poi arrestato a Londra per una frode immobiliare da 750 milioni di sterline, o Victor Restis, armatore greco, ambasciatore di San Marino in Polonia, poi accusato di riciclaggio, oppure Horace Kit Keung-han, enigmatico uomo d'affari di Hong Kong, legato al gioco d'azzardo, ex ambasciatore di San Marino in Russia. La Repubblica di San Marino, insomma, era diventata lo snodo di un traffico di immunità diplomatiche concesse con grande disinvoltura dall'allora ministro degli esteri Claudio Podeschi in cambio di denaro, che poi confluiva su un conto bancario cifrato detto conto Mazzini. Podeschi è stato arrestato e condannato e i titoli di ambasciatore sono stati finalmente revocati, ma lo schema si ripete altrove. Un piccolo stato disponibile a trafficare si trova sempre, e per un faccendiere internazionale l'immunità diplomatica rappresenta un vantaggio formidabile, anche se bisogna pagarla qualche milione di euro. Un bel pezzo di economia illegale, quella che vi stiamo raccontando quest'oggi a Nessun Luogo Lontano, in questi giorni in cui noi ci stiamo con affetto scambiando i regali Ebbene, ci sono persone, i signori delle frontiere, che invece scambiano merci in maniera illegale o a volte merci appunto illegali. Abbiamo tentato di spulciare anche un po' la cronaca più recente per regalarvi le storie più ardite di contrabbando, anzi le storie di contrabbando più arditi. Beh, e ce n'è una che è particolarmente intrigante e l'abbiamo trovata sul New Yorker. È una storia che risale al 2013, pensate, lo dicevo inizio trasmissione, tra i traffici più curiosi e remunerativi c'è quello che ci porta molto indietro nel tempo, milioni e milioni di anni fa, perché si possono contrabbandare i fossili di dinosauro. Allora, la storia sembra veramente disegnata, scritta e configurata per un bellissimo film. Durante un'asta a Chelsea, siamo in Massachusetts, nel 2013, sta per essere battuto un pezzo importantissimo. Come racconta con dovizia di particolari un pezzo del New Yorker, appunto dello stesso anno, dopo ametiste, frammenti di meteorite e altri pezzi di grandissimo valore, spunta nelle mani del battitore un resto inequivocabile. In realtà non spunta proprio nelle mani del battitore, perché stiamo parlando di un resto di dinosauro gigantesco, lo scheletro di un T-Rex completo praticamente al 75%, vecchio di 70 milioni di anni fa. La base d'asta? $875,000. Il battitore sta per procedere con le offerte quando un avvocato, telefonino in mano, interrompe tutto, si alza nel mezzo della sala e annuncia: ho il giudice Carlos Cortez di Dallas in linea. Il giudice avrebbe qualcosa da dire. Infatti, quello scheletro di Tyrannosaurus Rex era stato rubato e contrabbandato, pensate, dal deserto del Gobi in Mongolia ed era finito poi appunto in questa casa d'asta a Chelsea. La storia è un complesso intrigo di cronaca giudiziaria e criminale, ma ci insegna una cosa: che i signori delle frontiere e i contrabbandieri sono capaci di abbracciare e commerciare davvero qualunque cosa. L'autore di questa incredibile operazione di contrabbando di T-Rex, Eric Procopi, all'epoca quasi quarantenne, è stato battezzato come il primo grande trafficante di dinosauri della storia. E che storia, se il pezzo più importante risaliva a 70 milioni di anni fa. E siamo in chiusura, quindi Carmelo Lauricella, lanciamo i titoli, anzi contrabbandiamo i titoli di coda. Con i quali ringrazio voi per essere stati ascolto, Antonio Tali e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, Carmelo Lauricella che è stato al timone e in regia. L'appuntamento è con la replica questa sera alle ore 22, seguiteci sui social Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. L'appuntamento è per il 1 gennaio, anno nuovo, lì vi racconteremo cosa accadrà l'anno che verrà, un piccolo atlante geopolitico per muoversi meglio nel 2018. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.